Calopresti del Nuovo Cinema Aquila per presentare il diario della chiusura. Mimmo, ben trovato. Ciao, ben trovato anche a te in questa nuova situazione incredibile che ci ritroviamo intorno a noi. Quindi, capito? Siamo nella fase in cui un cinema chiuso deve trovare un modo di continuare, come dire, ad avere degli spettatori. Sì. È una cosa più complicata, eh? Sì, raccontaci di questa iniziativa. Ma l'iniziativa è quella di tenere un dialogo aperto con i nostri spettatori, quelli che vengono al cinema, che vengono a vedere i film, riproponendo piccole cose che ci abbiamo lì da tempo, che abbiamo fatto nel tempo, e tenendo un dialogo aperto per esempio sulla situazione, no? Capire quali saranno le uscite, per esempio, ci sono tutti i film bloccati in questo momento, non in Italia, in tutto il mondo, perché ovviamente la situazione si sta aggravando da questo punto di vista, e quindi cerchiamo di capire come si sta muovendo questo sistema, no? Di ritrasmissione, che succederà soprattutto, come si riaprirà un cinema. È un'operazione difficile, mentre intanto cerchiamo di proporre qualcosa. Adesso cominceremo a proporre anche degli incontri via Skype che riusciremo a realizzare, raccontando i film, raccontando quello che sappiamo intorno a un film che è da vedere. Ecco, forse l'unica cosa che non possiamo fare è far vedere i film che devono uscire. Forse questo è il sogno, avere un cinema via web, no? Dove possiamo proiettare con i nostri abbonati, per esempio, un film in uscita. Ecco, questo sarebbe interessante. Avete suddiviso un po' per giorni la settimana, se non sbaglio. Sì, sì, abbiamo una divisione, adesso in questo momento non te la saprei proprio dire, c'è un'idea di un appuntamento fisso giornaliero, ecco, con varie cose. Avevamo già iniziato a fare una cosa di questo genere, tutti i martedì raccontavamo per esempio questa cosa degli incassi, no? E dei film usciti, cioè, era per esempio capire i film come sono, come funzionano quando arrivano sul mercato, perché è una cosa che va cominciato ad avere successo con il nostro pubblico, così con le persone che si collegavano, perché per esempio rispetto a queste cose qua la gente sa poco, no? Per esempio da noi pensa che siamo fortemente indirizzati a far vedere quello che chiamiamo il cinema indipendente, pur facendo i conti obbligatoriamente col cinema quello di successo che c'è, no? Per permettere al quartiere di avere accesso a ogni tipo di film, no? Allora, capire, no, come un film indipendente possa esistere sul mercato, in una struttura come la nostra, ma forse in più strutture in giro per l'Italia, è veramente una scienza per certi aspetti che sto imparando anch'io. E quindi molte volte ci ritroviamo con delle richieste da parte del pubblico, che noi abbiamo molto particolare, no? Che si mette in coda per vedere i film in lingua originale, per esempio, e film che sul mercato stanno per pochi giorni, in una prima settimana, noi riusciamo a tenere per molti giorni, no? Come servizio sociale quasi, ecco, abbiamo questa funzione da quasi da servizio sociale, il cinema come servizio sociale, e questa cosa qui però deve fare i conti con una cosa importante, che è l'economia e l'organizzazione della distribuzione dei film, che è veramente qualcosa di incredibile, ed è una cosa che se forse riusciremo con il nostro pubblico a capire, ci servirà in futuro per capire quali film fare, come fare in modo che il nostro cinema sia una sala dove le persone hanno quello che veramente vogliono vedere, ecco, magari a prezzi anche decenti, ecco, perché poi c'è un problema di prezzi in tutto questo, no? Mimmo, com'è stata la risposta, l'interazione in questi primi giorni con chi era dall'altra parte? È buona perché, come dire, in questo momento tutti vogliono questo modo di comunicare, o anche di stare ad ascoltare, ecco, però è difficile per chi come noi abbiamo il pubblico che vediamo. Mi ricordo l'ultima cosa che abbiamo fatto, no? Che abbiamo fatto in sala grande, nessun nome nei titoli di coda. È molto bello, no? Quella cosa lì, perché in quel mondo lì c'è il popolo, se vuoi, no? E quindi come abbiamo fatto la prima serata, era piena di gente, ma era la sera in cui ci dovevamo organizzare. E allora abbiamo separato le sedie, le coda, eccetera. Mi era divertente perché a un certo punto abbiamo separato marito e moglie che si opponevano fortemente a questa cosa di stare distanti mentre vedevano i loro film. E quelle sono tutte persone, come dire, che hanno un modo di stare al cinema preciso. Si capisce che la sala è un posto dove loro si sentono al loro agio, no? Fanno il cinema, vedono il cinema anche, no? Andavano a vedere loro stessi quella sera lì. E questa cosa qui dimostra che quell'entusiasmo lì, quel modo di vedere le cose, di stare insieme in questo tipo di evento, è necessario alle persone. Ecco, quindi per noi, che forzatamente, secondo me, dobbiamo andare in questa direzione anche per il futuro, devo dirti, di avere un pubblico anche che passi non dalla sala, ma da altre parti, è un po' triste, ecco, è un rapporto, se voglio dire, più dire, quasi di tristezza rispetto a quello che abbiamo perduto. Senti, i riferimenti chiaramente sono a partire dalla pagina Facebook. Sì, assolutamente, la nostra pagina Facebook è fondamentale, è il posto dove lavoriamo, produciamo in questo momento tutto quello che c'è possibile, in queste condizioni. Dobbiamo migliorare anche noi come capacità produttiva, no? Stavo pensando in questi giorni di provare a fare un cortometraggio via Skype con Marcello Fonte e vedere se riusciamo a proiettarlo lì, no? Per esempio, cioè cercare di trovare delle forme in cui c'è il prodotto, non solo quello che manca rispetto a una sala è quel meraviglioso prodotto che c'è sul grande schermo a un certo punto che ti avvolge, no? Quel momento lì, insomma, bisogna trovare il modo di ripeterlo da qualche altra parte. Ecco. Quindi, il grande schermo e la condivisione e lo scambio a quattro occhi, insomma. Sì, assolutamente, assolutamente, quella cosa lì. Il diario della chiusura per quanto riguarda il nuovo Cinema Aquila, un saluto e un ringraziamento al regista Mimmo Calotresti. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima, Mimmo. Grazie a te, al tuo lavoro, grazie, ciao. Ciao. Con la regista Antonietta De Lillo per presentare La cultura non si ferma, i film di Marechiaro Film in streaming gratuito fino al 3 aprile. Antonietta, ben trovata. Ben trovata a te. Presentaci l'iniziativa. Segue l'iniziativa di tante altre realtà che ci vedono chiusi in casa, giustamente, perché dobbiamo rimanere tutti chiusi in casa e quindi raggiungere tutti quanti attraverso un'offerta a volte difficile da trovare o comunque non disposta a pagare, free, e quindi si apre nelle nostre case, la cultura non si ferma e arrivano anche titoli inediti e comunque un po' difficili da trovare, perché sicuramente il Liceo di Marechiaro nella sua stranezza tra il mediometraggio Rock Peter, che ovviamente non è un film di finzione, non è lungo quanto un cinema, cioè è un mediometraggio di 37 minuti presentato a Venezia con la grande Marina Confalone, è possibile vederlo, cioè quei prodotti che proprio nella loro atipicità è difficile rincorrerli. Allora abbiamo pensato che questo è il momento giusto per unirci anche noi e fare quel po' che si può fare, portare la cultura, il nostro destino, che è fatto principalmente di titoli di film da me realizzati a partire dal Resto di Niente, e anche i lavori di animazione di Maria Di Razza, sono stati dei corti che piccoli ma molto gloriosi, hanno vinto molti premi e sono andati in molti festival importanti, l'ultimo appunto Goodbye Meridian al Festival di Venezia. Ecco, ci parli un po' dei lavori che saranno in fruizione? Da una parte ci sono i ritratti, tipo il ritratto di Alda Merini, la parte della porta accanto, che è fondamentalmente fatto da una lunga conversazione che più di 30 anni fa ho avuto con Alda Merini, l'ho rieditato da 3-4 anni, ha girato molto su Netflix, in Rai, eccetera, ora era appunto introvabile, in questi giorni è possibile vederlo nel listino e questa iniziativa è fatta dalla piccola e indipendente Marechiaro Film. Poi c'è Let's Go è la storia di questo fotografo, mio amico, che tsunami economico è finito per diventare, come molti di noi, povero, senza più né tetto, più emarginato di un extracomunitario clandestino, e la sua storia, la sua anche letteratura, perché è un artista, lui stesso ha scritto un testo interpretato da Roberto De Francesco, dove più che raccontare i fatti qualche modo. È esattamente un po' il contrario di quello che sta succedendo in questo momento di emergenza, dove è vero che siamo isolati, ma è vero che la cosa in mezzo alla tragedia che sta succedendo è che non ci sentiamo soli, o perlomeno io non mi sento sola. Però voglio anche ricordare che ci sono i film partecipati, in particolare un film inchiesta sull'amore che si chiama Oggi Insieme Domani Anche, che insomma si parla tanto di film partecipati e Marigaro, diciamo, sono 10 anni che li frequenta e ce ne sono due, il primo esperimento Il Pranzo di Natale e Oggi Insieme Domani Anche. I riferimenti sono Mare Chiaro Film, la pagina La Cultura Non Si Ferma, cliccate sul manifesto del film che volete vedere e la password è Io Resto a Casa. La Cultura Non Si Ferma, i film di Mare Chiaro in streaming gratuito fino al 3 aprile. Un saluto e un ringraziamento alla regista Antonietta De Lillo. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao. Con il regista Alessandro Melazzini per parlare dell'iniziativa L'Arte Contro il Virus, alcuni documentari di Alpen Way gratuitamente in streaming. Alessandro, ben trovato. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Illustraci questa iniziativa. Sono stato contattato alcuni giorni fa dalla direttrice del Festival di Ischia, che ha avuto la bella idea di mettere online il programma delle edizioni passate del Festival a disposizione delle persone che sono a casa e possono utilizzare questo domicilio forzato per vedere i film. E abbiamo detto con molto piacere di sì a due documentari, uno sullo Stelvio Concili della Pace e l'altro La Nostra Pietra di Alessandro Soge. Dopo questo sono stato contattato dall'Accademia di Santa Cecilia, di cui ho prodotto il documentario di Angelo Borsolini alcuni anni fa ormai, e abbiamo avuto l'idea di mettere a disposizione anche questo, che è il documentario dell'orchestra, sull'orchestra, a disposizione di tutte le persone amanti della musica, amanti del documentario, che lo vogliono vedere. E quindi da domenica 22 marzo per un mese intero, andando sul sito di alpenway.com, che era la società di produzione, si potrà vedere il documentario Il carattere italiano di Angelo Borsolini. E raccontiamo brevemente a chi ci ascolta quali sono le caratteristiche di questi tre lavori. Sono tre lavori molto molto diversi uno dall'altro, forse accomunati oltre al fatto che li ho prodotti io e uno l'ho citato io, lo Stelvio, che hanno comunque a che fare con l'Italia, questa diciamo è la caratteristica principale, oltre che magari anche un certo modo di fare il documentario che comunque è comune tra i registi con i quali lavoriamo. Il documentario sullo Stelvio, un lavoro mio anche come regia, io vengo dalla Valtellina ma abito a Monaco di Baviera ed è stato per me un modo per ritornare in quel luogo da cui da giovane ero andato via per fare un affresco di un luogo un po' così poco conosciuto attraverso dei ritratti di persone molto diverse una dall'altra che hanno un forte legame con la montagna e con lo Stelvio, dove peraltro si è combattuta la Prima Guerra Mondiale. Il documentario invece di Alessandro Soge, che si intitola La Nostra Pietra, è un'opera dedicata a Daniele Kilgren, che è un imprenditore visionario che praticamente del suo cospicuo patrimonio familiare l'ha utilizzato non per divertirsi, andare a cocche e mignotte, mettiamola così, bensì per salvare un intero borgo abruzzese dalla rovina, Santo Stefano di Sessagno, acquistando una buona parte delle case e ristrutturandole in maniera filologica. Quindi ad esempio i muri non sono stati intonacati, ma sono stati ristrutturati ma lasciati così perché, come dice Daniele Kilgren, i muri sono un'opera d'arte ed è quindi un documentario molto poetico, molto bello, che racconta l'opera di Daniele attraverso la figura di Daniele, un imprenditore che è anche, e secondo me questa è la forza del documentario, una persona anche non facile, non è semplicemente un amante dei grandi progetti, è anche una persona con le sue asperità e questo diciamo il documentario lo mostra, questo è anche il valore della collaborazione che Daniele ha dato nel farlo, cioè non si è tirato indietro nel venire ripreso in maniera diretta così dal regista, e alla fine ne esce comunque un affresco di una comunità, quella di Santo Stefano di Sessanio, di una persona e, se vogliamo, anche di un paese d'Italia che è molto bello e spesso non sa quanto è bello. Insomma, forse ci vuole qualcuno geniale, pazzoide, per salvarla l'Italia, come è capitato nel piccolo per il paese di Santo Stefano di Sessanio. Il documentario invece fatto con l'Accademia di Santa Cecilia, sotto la regia di Angelo Bozzolini, è una grande descrizione di un'orchestra. Un'orchestra è fatta da tantissime persone, un'orchestra italiana è fatta da tantissimi solisti, quindi diciamo è molto diverso un'orchestra italiana da un'orchestra tedesca, per esempio. Questo viene tematizzato, ma nel documentario vengono mostrate le prove, quindi si entra proprio nel Santa Santorum dell'orchestra, quando ci sono le prove, quando Antonio Pappano si impegna al di fuori dell'aspetto più bello della prima, bensì quando c'è proprio da lavorare per mettere a posto le cose che non vanno, insieme a dei grandi solisti internazionali, oppure quando l'orchestra di Santa Cecilia è diretta da grandi conduttori d'orchestra. E anche questo, cioè il direttore d'orchestra, è un tema su cui il documentario fa un focus molto interessante, perché non tutti capiscono e sanno che cosa fa un direttore d'orchestra. Anch'io devo dire non l'avevo così presente come l'ho adesso, dopo aver potuto collaborare a questo bel documentario. E poi naturalmente Sara Sandì, in tempi così drammatici nei quali l'Italia è così colpita da questa pandemia, mettere online per tutti un documentario che si chiama Il carattere italiano vuol dire dare un segno positivo, no? Cioè l'Italia e il suo carattere così particolare che in questi mesi, in queste settimane viene vista con grande ammirazione all'estero per la tenacia con la quale si combatte questa emergenza. Ecco, anche nel documentario si parla non solo di musica, ma anche appunto di questo carattere italiano che sta venendo fuori, così come nelle emergenze vengono sempre fuori il meglio e il peggio delle persone, del popolo. E da quello che io vedo dall'estero, visto che vivo all'estero, c'è anche molto di positivo in questa tragedia, diciamo. Positivo per vedere come la popolazione, come questi medici eroici si stanno cercando di contenere la pandemia, ecco, cioè non il virus non è positivo, ma come lo si affronta è una grande prova a cui tutti siamo chiamati, ma gli italiani in questo momento per primi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, volentieri. Allora, basta che si va sul sito alpenway.com, Alpen come Alpi in tedesco e Way come via, la via delle Alpi è la via che unisce l'Italia e la Germania. Alpenway.com è il sito della società di produzione, da lì si può arrivare al documentario su Santa Cecilia, mentre i documentari dello Stelvio e la nostra pietra sono visibili in diretta sul sito dell'Ischia Film Festival. Non mi viene in mente adesso il titolo, ma se su Google si va e si cerca Ischia Film Festival, poi lo si può trovare facilmente. L'arte contro il virus, alcuni documentari di Alpenway gratuitamente in streaming dal 22 marzo al 22 aprile 2020. Un saluto e un ringraziamento alla regista Alessandro Melazzini. Grazie. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Con Gianluca Aguzzo di My Movies per parlare di My Movies Live, 50 film in streaming gratuito. Gianluca, ben trovato. Ciao, ciao. Raccontaci. Beh sì, siamo tornati online con My Movies Live. Sentivamo assolutamente questa esigenza, era da tanto che non eravamo online con dei film, e però abbiamo sentito la necessità di dover tornare dai nostri utenti e di riproporre il nostro modello, il modello classico di My Movies, che ti dà la possibilità di vedere tutti i film insieme nello stesso momento, quindi un po' una nostalgia alla sala, le sale purtroppo chiuse in queste settimane, e anche per volontà di molte case di distribuzione e anche di qualche esercizio che ci chiedeva appunto di rilanciare questa modalità, che a differenza delle modalità classiche di visioni